Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. 12ª puntata. Io ero come rincretinito, fratelli, e non ci locchiavo nemmeno tanto bene, ma ero sicuro d'aver già incontrato questi cerini in qualche sosto. Quello che mi teneva facendo su, su, su, proprio sul portone della Biblio, non lo conoscevo per niente, ma mi sembrava un po' troppo giovane per essere un rozzo. Ma gli altri due avevano delle schiene che ero certo di aver già locchiato. Facendo sibilare dei frustini che avevano, frustavano alla cieca e con gran giubilo e gioia questi vecchi martini e scricciavano: «Ecco ragazzacci, vi insegniamo noi a far risse e a turbare la pace dello Stato, brutti bastardi!» Così ricacciarono in sala di lettura questi bigi vendicatori ansimanti e rantolanti e quasi sull'orlo della tomba. E poi, gufando per il grande spasso, si voltarono a locchiarmi. Il più vecchio dei due disse: «Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, chi si vede? Il nostro piccolo Alex in carne e ossa! Non ci locchiamo da un bel po', caro Soma. Come la va?» Io ero come rincretinito, dato che l'uniforme, il parazucca o il metto mascheravano parecchio, anche se Biffa e Ciangotta erano piuttosto familiari. Poi locchiai quell'altro e su lui, con quella biffa ghignante e scardinata, non ebbi dubbi. Poi, sempre più rincretinito, locchiai da capo quello del guardaroba. Era Billy Boy, il grassone, il mio vecchio nemico. E l'altro, naturalmente, era Bamba, che una volta era stato soma mio e nemico anche lui di quel grasso caprone fetente di Billy Boy, ma che adesso era un rozzo con tanto di uniforme parazucca e frustino per mantenere l'ordine. Io dissi: «Oh no! Sorpresa, sorpresa!» E il vecchio Bamba se ne uscì con la vecchia ragliata che ricordavo così cinebrivido. «Uah, uah, uah!» «Impossibile!» dissi. «Non può essere, non ci credo!» «L'evidenza sotto i vecchi fari!» ghignò Billy Boy. «Niente nelle maniche, niente trucchi, Soma. Un lavoro come un altro per due martini in età da lavoro. Ma siete troppo giovani!» dissi. «Troppo, troppo giovani! Dei malcichi della vostra età non possono fare i poliziotti!» «Eramo giovani!» fece il vecchio cerino Bamba. «Io non riuscivo a capacitarmi, fratelli, proprio non ci riuscivo!» «Allora eramo giovani, caro Soma, e tu eri il più giovane, e ora eccoci qua!» «Non riesco ancora a crederci», dissi. Poi Billy Boy, il cerino Billy Boy di cui non mi capacitavo, disse a quest'altro giovane rozzo che mi teneva: «Credo che faremmo molto bene, Rex, a tirar fuori un po' di vecchia procedura sommaria. I ragazzi sono ragazzi, si sa. Non c'è bisogno di seguire la vecchia routine e andare in sede, eccetera. Questo qui stava facendo quello che ha sempre fatto, e noi ce lo ricordiamo bene, anche se tu non puoi ricordartelo, naturalmente. Attaccava i vecchi e gli indifesi, e loro gli stavano soltanto rendendo la pariglia. Ma noi dobbiamo dire la nostra in nome dello Stato.» «Ma che dici?» dissi io, incapace di credere ai miei snicchi. «Sono stati loro ad assalirmi, fratelli. Non sarete mica dalla loro parte, spero. Non puoi, Bamba. Era un poldo che avevamo scapricciato ai vecchi tempi e cercava di prendersi un piccolo poco di vendetta.» «Vecchi tempi, dici bene», disse Bamba. «Io non me li ricordo tanto cinebrivido quei tempi. E non chiamarmi più Bamba. Devi chiamarmi signor agente.» «Però qualcosa ce lo ricordiamo», continuò Billy Boy facendo di sì col planetario. Non era più così grasso come una volta. «Ci ricordiamo dei piccoli malcichi cattivi, tanto svelti con la lisca tagliagola. E bisogna domarli, questi piccoli malcichi.» E mi aggranfiarono stretto e mi portarono fuori dalla Biblio. C'era una camionetta che aspettava. E questo martino che chiamavano Rex era l'autista. Mi spinsero dentro a festoni e io non riuscivo a non pensare che doveva essere tutto uno scherzo e che a un certo punto Bamba si sarebbe levato il parazucca con degli «wow, wow, wow» alti suono. Ma non lo fece. Io dissi, cercando di dominare il frizzone: «E il vecchio Pete? Che fine ha fatto il vecchio Pete?» «Ho snicchiato di Giorgi», dissi. «Mi è dispiaciuto.» «Pete, già, Pete», disse Bamba. «Il nome non mi è nuovo.» L'occhiai che stavamo uscendo dalla città, dissi: «Dov'è che si va?» Billy Boy, che era seduto davanti, si voltò per dire «È ancora giorno! Facciamo un giretto in campagna che è tanto bella anche d'inverno, ma soprattutto è deserta. È meglio non farlocchiare troppo spesso le nostre punizioni sommarie alla gregaglia della città. Bisogna mantenere l'ordine nelle strade». E mi voltò di nuovo la schiena. «Via!» dissi. «Non è possibile! I vecchi tempi sono morti e sepolti. Sono già stato punito per quello che ho fatto in passato e mi hanno anche guarito!» «Già, ce l'hanno letto!» disse Bamba. «Il nostro super ci ha letto tutta la storia. Ha detto che è un ottimo sistema». «Te l'hanno letto», dissi io, un piccolo poco maligno. «Sei ancora così bamba da non poter leggere da solo, o fratello?» «Ah, no», disse Bamba, tipo gentile e dispiaciuto. «Non si parla più così. Non è più il caso, Soma». E mi allungò un tamagno festone dritto sulla pinna e la salsa rossa cominciò a dripparmi giù, drip, drip. «Non c'è speranza», dissi io, amaro, asciugandomi la salsa con la granfia. «Sono sempre stato solicello». «Qui va bene», disse Billy Boy. Si era in piena campagna, tutta alberi nudi e qualche cinguettio qua e là, e in lontananza c'era qualche specie di macchina agricola che faceva uno sguerzo tipo ronzante. Si stava facendo buio, dato che era inverno pieno. Non c'era in giro nessuno, né martini né bestie. Solo noi quattro. «Vieni fuori, Alex caro», disse Bamba. «Solo un piccolo poco di sommaria». Per tutto il tempo che durò, questo martino autista se ne stette seduto al volante sfumacchiando e leggendo un mignolo libriccino. Aveva acceso la luce nell'auto per leggere e non badò per nulla a quello che Bamba e Billy Boy fecero al vostro umile narratore. Io non scenderò in particolari, ma fu tutto un ansimare e uno sbattere contro questo sfondo tipo di macchine agricole e cicci cinguetti dentro gli alberi spalandrati. Si locchiava il fiato fumante alla luce dell'auto e questo autista che voltava le pagine calmo calmo. E loro mi stettero addosso tutto il tempo, oh fratelli miei. Poi Bamba o Billy Boy, non so nemmeno quale, disse «Ora può bastare, Soma, direi. Tu che dici?» Poi mi dettero un festone finale per uno sulla biffa e io crollai giù e rimasi là, disteso sull'erba. Faceva freddo, ma io il freddo manco lo sentivo. Poi loro si stropicciarono le mani e si rimisero il parazucca e i giacconi che si erano tolti e risalirono in auto. «Arrivederci alla prossima volta, Alex!» disse Billy Boy. E Bamba si fece una delle sue ragliate clownesche. L'autista finì la pagina, ripose il libro e mise in moto. E il mio ex Soma e il mio ex nemico ripartirono verso la città salutando con la mano. Io rimasi per terra, tutto pesto e mantecato. Dopo un po' ero tutto un dolore. E poi cominciò a venir giù la pioggia ed era proprio ghiacciata. Non c'era un solo poldo in vista, né una luce. Dove potevo andare? Io che non avevo una casa e con pochissimo trucciolo nelle gaioffe? Bah! Piansi per me stesso. Poi mi alzai e cominciai a camminare. Casa mia, casa mia, casa mia. Era casa mia che volevo. Ed era casa mia quella dove arrivai, fratelli. Camminavo nel buio e non verso la città, ma dalla parte opposta, dove prima c'era stato quello sguerzo tipo macchina agricola. Arrivai a una specie di villaggio che mi pareva d'aver già locchiato, forse per via che tutti i villaggi si somigliano, specialmente al buio. Qui c'erano delle case e là c'era un sosto tipo bar e proprio al confine del villaggio c'era un mignolo cottage tutto solicello e aveva una scritta bianca che spiccava sul cancello. «Casa mia», diceva. Ero fradicio marcio per via di quella pioggia ghiacciata e le mie palandre non erano certo più all'estremo grido ma facevano pena e pietà e il mio glorioso criname era tutto un pastrocchio sguanoso incollato al planetario. Ed ero certo d'avere la biffa piena di lividi e ferite, e c'erano un paio di zughi che tentennavano quando li toccavo con la slappa. e sentivo male in tutte le macerie ed ero così assetato che aprivo il truglio alla pioggia fredda e il mio stomaco brontolava a tutt'andare dato che non toccavo un po' di boffa dal mattino. Oh, fratelli, casa mia, diceva, e forse lì qualcuno mi avrebbe aiutato. Aprii il cancello e sdrucciolai, tipo, giù per il sentiero, per via che la pioggia stava diventando ghiaccio. E poi bussai alla porta, gentile e patetico. Non venne nessuno. Così bussai un piccolo poco più forte e più a lungo, e poi snicchiai uno sguerzo di patte. Poi la porta si aprì, e una ciangotta maschile disse: «Sì? Cosa c'è?» «Oh», dissi, «mi aiuti, la prego». «La polizia mi ha picchiato e mi ha lasciato morire per la strada. Oh, la prego, mi dia qualcosa da bere, mi faccia scaldare un poco, la prego, signore». Allora la porta si aprì per bene e potei locchiare una luce calda e un fuoco che faceva crack, crack nel caminetto. «Entra», disse questo Martino, «chiunque tu sia, che Dio ti aiuti, povera vittima. Vieni, fammi vedere». Così io barcollai dentro e non facevo mica scene, fratelli, mi sentivo davvero più di là che di qua. Questo Martino gentile mi mise la granfia sulle spalle e mi fece entrare in questa stanza dove c'era il fuoco. E naturalmente ora capii subito dove mi trovavo e perché quel casa mia sul cancello mi era sembrato così familiare. Guardai il poldo e lui guardò me con un'aria gentile e riconobbi pure lui. Certo, lui non poteva riconoscermi, perché in quei giorni spensierati io e i miei cosiddetti soma facevamo i nostri scapricci e i nostri squassaggi più tamagni con delle maschere che ci coprivano biffa e planetario. Era un Martino bassetto di mezza età, 30 o 40 o 50, e aveva le traveghe sul naso. «Siediti accanto al fuoco», disse. «Ti porto subito un po' di whisky e dell'acqua calda. Dio, Dio, Dio, ti hanno conciato proprio bene». E mi dette un'occhiata tipo tenera alla biffa. «La polizia», dissi, «quell'orribile polizia». «Un'altra vittima», disse, tipo sospirando. «Una vittima dell'epoca moderna. Ora vado a prenderti quel whisky e poi ti pulisco un po' le ferite». E andò. Io detti un'occhiata a questa migna comoda stanzetta. Adesso c'erano soltanto libri e il caminetto e un paio di sedie. E non so come si locchiava che non ci abitavano donne. Sul tavolo c'era una macchina da scrivere e un sacco di fogli. E mi ricordai che questo poldo era un poldo scrittore. «Arancia meccanica» si chiamava quel libro. Buffo come mi era rimasto impresso. Non dovevo farmene accorgere, però, perché ora avevo bisogno di aiuto e di gentilezza. Quegli orribili bugaroni lezzosi in quell'orribile sosto bianco mi avevano fregato, mi avevano reso bisognoso di aiuto e gentilezza e mi avevano obbligato a dare aiuto e gentilezza se trovavo chi li volesse. «Eccoci qua», disse questo Martino tornando. Mi dette da glutare un bicchierone caldo e stimolante che mi fece sentire un po' meglio. Poi mi ripulì le ferite della biffa. Poi disse: «Ora fai un bel bagno caldo, te lo preparo io. E mentre fai il bagno ti preparo anche la cena, così puoi raccontarmi tutto mentre mangi». Fratelli miei, ero tutto commosso dalla sua bontà. E lui deve aver locchiato le vecchie lacrime nei miei fari, perché disse: «Su, su, su», battendomi sulla mestola. Comunque andai di sopra e feci questo bagno caldo. E lui mi portò dentro un pigiama e una vestaglia riscaldati vicino al fuoco e anche un caldo paio di toffole. E ora, fratelli, anche se ero tutto un dolore, mi pareva che presto mi sarei sentito meglio. Pistonai di sotto in cucina e locchiai chi aveva apparecchiato la tavola con coltelli e forchette e un grosso pezzo di brombo e anche una bottiglia di salsa Primiere. E poco dopo mi servì un bel piatto di coccovetti fritti con trince di prosciutto e salsicce scoppiettanti e tamagni tazzoni di cià al latte. Era bello star seduti là al calduccio e mangiare, e inoltre avevo una gran fame. Così dopo i coccovetti dovetti mangiare trincia su trincia di brombo spalmato di burro e marmellata di fragole. «Ora va meglio», dissi. «Come la potrò ringraziare?» «Credo di sapere chi sei», disse lui. «Se sei chi credo tu sia, allora sei capitato proprio nel posto giusto, amico mio. Non era tua la foto sui giornali di oggi. Non sei tu la povera vittima di quell'orribile tecnica nuova. Se è così, è la provvidenza che ti manda, torturato in prigione e poi sbattuto fuori perché la polizia continui a torturarti. Hai tutta la mia compassione, povero ragazzo. Fratelli, non riuscivo a infilare una parola anche se avevo il truglio aperto e pronto a rispondere alle sue domande. Non sei il primo a venire qui in queste condizioni», disse. «La polizia ama portare le sue vittime nei dintorni di questo villaggio, ma è provvidenziale che ci sia arrivato proprio tu, che sei anche un'altra specie di vittima. Ma forse avevi sentito parlare di me?» «Dovevo andarci piano, fratelli», dissi. «Ho sentito parlare di Arancia Meccanica. Non l'ho letto, ma ne ho sentito parlare». «Ah!» disse, e la biffa gli brillò come il sole col suo criname fiammeggiante nel mezzo del mattino. «Ora raccontami di te». «Non c'è molto da dire, signore», dissi io tutto umile. «Si trattò di uno stupido scherzo da ragazzi. I miei cosiddetti amici mi convinsero, o piuttosto mi obbligarono, a introdurmi in casa di una vecchia quaglia, signora, voglio dire. Non volevo far nulla di male. Sfortunatamente la signora si sforzò troppo il vecchio cuore, cercando di buttarmi fuori, anche se ero prontissimo ad andarmene di mia iniziativa, e poi morì. Io fui accusato d'essere la causa della sua morte. Così mi mandarono in prigione, signore». «Sì, sì, sì, va avanti». «Poi fui scelto dal ministro degli interni o esterni per provare questa trucca, Ludovico». «Raccontami bene tutto», disse lui, chinandosi impaziente in avanti e mettendo i gomiti nel piatto che avevo spinto da parte e sporcandoseli tutti di marmellata di fragola. Così io glielo raccontai. Gli raccontai bene tutto, fratelli, da cima a fondo. Lui ascoltava avidamente, i fari luccicanti e le lerfie aperte, mentre l'unto nei piatti faceva la crosta. Quando ebbi finito si alzò con grandi scuotimenti di planetario e facendo raccolse i piatti e le altre trucche e li portò all'acquaio per lavarli. Io dissi: «Lo faccio volentieri io, signore». «No, no, riposati, povero ragazzo», disse lui, aprendo il rubinetto dell'acqua calda che schizzò fuori fumando e gorgogliando. «Tu hai peccato, immagino, ma la tua punizione è stata davvero sproporzionata. In fondo eri un essere umano e loro ti hanno cambiato in qualcos'altro. Non sei più in grado di scegliere. Ora sei obbligato a compiere soltanto delle azioni socialmente accettabili, come una macchina capace di fare solo il bene. Oh, capisco benissimo. Anche quella faccenda del condizionamento marginale, musica e sesso, arte e letteratura non devono più essere fonte di piacere per te, ma di dolore». «Proprio così, signore», dissi, fumando una delle sue cancerose col bocchino. «Vanno sempre troppo in là», disse, asciugando un piatto tipo distrattamente. «Ma il vero peccato sta nell'intenzione essenziale. Un uomo che non può scegliere cessa di essere un uomo». «Lo diceva anche il salmiere della prigione, signore», dissi. «Il cappellano, voglio dire. Lo diceva anche lui, eh? Naturale che lo diceva. Non poteva non dirlo se era un cristiano. Beh, senti», disse, asciugando di nuovo un piatto che aveva già asciugato 10 minuti prima. «Domani farò venire qui un po' di gente. Io credo che potrai esserci utile, povero ragazzo. Credo che potrai aiutarci a destituire questo governo autoritario. Nessun governo dovrebbe gloriarsi di trasformare un giovane come te in un congegno meccanico, mi pare, a meno che non si faccia un vanto del proprio carattere repressivo». Stava ancora asciugando lo stesso piatto. «Signore, guardi che sta asciugando sempre lo stesso piatto. E sono d'accordo con lei, signore. Mi sembra che questo governo si vanti troppo». «Oh», disse lui, tipo vedendo quel piatto per la prima volta e poi mettendolo giù. «Non sono ancora molto pratico», disse, «nelle faccende domestiche. Era mia moglie che si occupava di tutto e io scrivevo soltanto». «Sua moglie, signore?» dissi. «Perché è partita e lo ha lasciato?» Mi interessava davvero sapere di sua moglie, dato che ricordavo tutto molto bene. «Sì, mi ha lasciato», disse, con una ciangotta sonora e tipo amara. «È morta, capisci? Fu picchiata e violentata brutalmente e il trauma fu troppo forte. Accadde in questa casa». E le granfie che tenevano lo straccio per asciugare gli tremavano. «Nella stanza accanto. Io ho dovuto armarmi di coraggio per continuare a vivere in questa casa, ma so che lei avrebbe desiderato che rimanessi qui, dove la sua memoria è ancora così viva. Sì, sì, sì. Povera bambina. Io l'occhiai di nuovo chiaramente, fratelli, tutto ciò che era successo in quella lontana cupa. E l'occhiando me stesso in azione mi venne voglia di vomitare, mi venne male al planetario. Questo Martino se ne accorse, perché sentii come se tutta la salsa mi abbandonasse la biffa e certo diventai molto pallido. «Ora è meglio che vai a letto», disse con gentilezza. «La camera degli ospiti è sempre pronta. Povero, povero ragazzo, quanto devi aver sofferto. Sei anche tu una vittima dell'epoca moderna, come lei. Povera, povera, povera bambina». Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.